Faccio un'ipotesi drammatica e assurda. Se cancelliamo 40 società perché non riescono a iscriversi, non è che noi giochiamo con 50 società. Noi dovremo comunque giocare con 60 società, ripescandone 10 sane. Quindi dobbiamo essere molto drastici quando faremo questi discorsi, ma sul numero minimo dei club che devono partecipare a un campionato di Lega Pro, il numero minimo è 60 squadre. Certo, quindi insomma questo è, diciamo, sintetizzando l'ipotesi peggiore. Esattamente, ecco, l'ipotesi le chiedo... peggiore, se no tutto avverrà arrivando a 60 squadre nel giro di 3 anni, come massimo. Le chiedo ancora, Presidente, lei più volte ha toccato il tasto dolente della distribuzione degli introiti TV. Di fatto oggi alla Lega Pro vengono distribuite le briciole, no, del grande mercato televisivo, con una formula di sussidiarietà che si sta dimostrando del tutto insufficiente. Da questo punto di vista, quali sono le soluzioni possibili a cui state lavorando? La soluzione è una sola, che in Italia esiste una legge dello Stato, che è la cosiddetta legge Melandri, che prevede che chi produce i diritti audiovisivi, somme dai diritti audiovisivi sulle grandi squadre, debbano mettere a disposizione il 6% del totale della loro produzione finanziaria a favore delle società sottostanti, quindi della B e delle ex società oggi di Lega Pro e prima di Serie C, e più un altro 4% che deve essere messo in una fondazione che ha un suo consiglio di amministrazione, e su questa fondazione poi si potrà accedere per fare determinati programmi, determinati progetti, sia sull'impiantistica, i settori giovanili, eccetera. Questa somma pari al 10%, di questa somma pari al 10% non abbiamo mai visto un euro. Dal 1 luglio 2010 siamo arrivati al punto che loro dovrebbero già averci comunicato, perché dal 1 luglio 2010 entra dopo 2 anni di un percorso diverso, ma entra in vigore al 100% questo famoso 6%. La Lega Nazionale Professionisti sostiene che questo 6% determinano loro quanto danno alla B e quanto danno a noi, cosa che a noi non è gradita e non riteniamo sia così, tant'è che abbiamo incardinato una causa che prenderà corpo fra qualche giorno col nostro legale, che è il professor Carbonetti, e quindi andremo davanti al giudice per stabilire quanto spetta a noi, perché noi abbiamo il diritto di sapere quanti soldi le nostre società hanno a disposizione, perché ecco, non quindi... possiamo chiedere alle società solo i doveri, ma dobbiamo mettere in condizione le società di avere certezza sui loro diritti. Ecco, Presidente, quindi questa è una notizia, cioè andrate in causa con la Lega Calcio di Serie A? Sì. Sicuramente sì.